cuore cerca amore nel disagio dell'esistenza, ma io alla sera vedo te al fianco mio. Quando vuoi, tu sei in te.